capricci tuoi son cose ridicole. Tu distruggerai il mio amore per te. Scendi, scendi, scendi giù dalle nuvole. Non restar lassù lontano da me. Sapessi quanti amori sono finiti così. Ritorna quella bimba che sorrideva per me. È tanto semplice, è tanto facile volersi bene. Amore, i capricci tuoi son cose ridicole. Tu distruggerai il mio amore per te. Bada che i bei giorni poi non ritornano. Non scherzare con l'amore mai più, mai più. Sapessi quanti amori finiti così, perché negarono fra tante lacrime per un capriccio. Ritorna quella bimba che sorrideva per me. È tanto semplice, è tanto facile volersi bene. Amore, i capricci tuoi son cose ridicole. Tu distruggerai il mio amore per te. Bada che i bei giorni poi non ritornano. Non scherzare.